in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up. Qui con voi questa mattina Patrizia Curreri e la buona musica di CRM Happy Radio, che questa mattina appunto si prefigge l'obiettivo di farvi svegliare questo inizio settimana, oggi 22 aprile 2013, che si prospetta alquanto un po' fastidioso, un po' sofferto, appunto anche perché il tempo non promette bene. Uno ha detto che appunto da domenica fino a mercoledì e dovevamo subire un po' di pioggia, dovevamo sopportare ancora un po' di pioggia. Ieri praticamente c'era una nebbia che sembrava che eravamo, non so, a Milano, le parti delle Alpi. Però poi è passata verso sera, appunto questa nebbia si è diradata e quindi adesso, cioè oggi è nuvoloso, qua c'è valluccio, un po' di freschicello, ma freschicello appunto primaverile, non c'è più quel freddo appunto invernale. Ormai le temperature primaverili si avanzano per poi lasciare posto all'estate, ma noi questa mattina appunto come ogni mattina qua a CRM Happy Wake Up ci svegliamo con la buona musica. È come non svegliarsi con David Guetta, e infatti questa è She Wolf con Sia. Quindi adesso alzatevi dal letto, alzatevi dalle vostre sedie e si balla e si canta con noi, con CRM Happy Wake Up. A shot in the dark, a past lost in space, where do I start? The past and the chance. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You got the doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Footsteps keep you lighter. Doesn't mean I'm over, 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Era Kelly Rexon, What Doesn't Kill You, a CRM Happy Wake Up. E ricordo i nostri numeri di telefono per poter interagire con noi, perché potete scegliere voi anche la musica da sentire questa mattina di lunedì 22 aprile 2013. Potete inviare un sms al 335 56 37251 o telefonare allo 0921 92 32 92. Oppure potete sentirci e vederci su internet al sito www.crmepiradio.it o siamo su Facebook, diventate fan della nostra pagina cliccando CRM Happy Radio Mi piace, quindi potete un po' essere aggiornati sui nostri programmi e sulle notizie che circolano anche nel nostro sito. E adesso 883, la dura legge del gol. Forza Juve! Chi l'ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che poi lo sappiamo, scattano le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi. Entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima. Per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci spia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso te lo tenevi su, e quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli o loro o me, quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente Cisco fa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi. La dura legge del gol, questi erano i grandi 883. Certo, dovevo prendere e mettere questa canzone perché da fiera juventina è un po' per festeggiare la vittoria di ieri sera. Non so quanti di voi, sicuramente un bel po' di persone in ascolto, hanno visto ieri la partita di calcio Juve contro Milan, e ha vinto 1-0 la Juve contro il Milan, quindi una bella vittoria, dicono meritata, appunto perché io sì, capisco qualcosa di calcio ma non del tutto, però sono una grande tifosa della Juve, come un po' qua la maggior parte dei cefaludesi, quindi non vedo l'ora di fare la tanta attesa sfilata come l'anno scorso e girare appunto per le vie di Cefalù tutti i più grandi juventini della città, quindi compreso anche il nostro collega Robby D'Antoni. E quindi ieri una bella vittoria, ancora non si sa se vinceremo lo scudetto, però le premesse sono buone e i risultati sono ottimi, quindi aspettiamo, intanto continuiamo a tifare, continuiamo a sperare, anche se abbiamo perso la Champions League, vabbè, pazienza, ci rifaremo il prossimo anno, ci rifaremo le ossa per il prossimo anno, anche perché non erano più abituati e quindi dai, il prossimo anno faremo molto meglio. Ma noi dobbiamo continuare con la nostra bellissima musica, la musica di CRM Happy Wake Up, ancora con me, ancora per 2 ore, perché noi saremo qui insieme a voi, io sarò insieme a voi, Patrizia Curreri sarò insieme a voi fino alle 11, dopodiché ci sarà Francesco Puglisi e continuerà la mattinata di musica di CRM Happy Radio. E adesso Jetty Rocks, I See You. What's your name anyway? You make me Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Viva, per questo son cattiva, innamorata persa di uno come te. Me lo conferma il sole, intatta a modo mio, che forse non è il tuo. Viva! A volte non mi sento. Viva! A volte esplodo dentro. D'altronde chi non pensa non si risolve mai. Viva! E questo punitiva. Viva! E vive il tuo coraggio. Su Dio, e rimase, lo so, e nel tempo che ho, scrivo vivo queste erano le grandi Loredana Errore e Loredana Bertea. CRM Happy Wake Up con me, con Patrizia Curreri. Si parla di noia, ma noi stiamo scacciando la noia in qualche modo, appunto, con la bellissima musica e con le piccole e interessanti notizie che preleviamo dal web e ce le raccontiamo un poco. Ecco, questa proprio della serie, non c'è sempre tempo per raggiungere i propri obiettivi, le proprie ambizioni. È proprio quello che fa un abitante del Massachusetts che è finalmente riuscito ad ottenere il tanto agognato diploma di maturità. Bene, appunto, il periodo è quello di preparazione, e appunto siamo ad aprile, a giugno sappiamo che ci sono i fatidici esami, sia di maturità che di scuola media, un po' tutti, non solo quelli anche di università, perché dobbiamo ricordarlo che sempre giugno, luglio sono le sessioni di esami, ci sono le sessioni di esami, quindi sempre prima dell'estate uno deve faticare così. E quindi quest'uomo ha dovuto lasciare la scuola e un po', appunto, ha rinunciato faticosamente alla scuola per aiutare a mantenere la famiglia. Dove sta la novità? La novità o la cosa particolare? Che quest'uomo raggiunge un record, perché ha raggiunto il diploma di maturità a 106 anni. L'uomo era sempre rimasto dispiaciuto, appunto, di non aver potuto completare gli studi, ma questo non l'ha comunque fermato nella vita, e durante la quale ha fatto in tempo a combattere nella Seconda Guerra Mondiale, lavorare nel dipartimento idrico della sua città nel Massachusetts oggi non lo dico, vabbè, e portare avanti per 65 anni il matrimonio e crescere 5 figli. In tutto questo il diploma gli è stato consegnato a honoris causa, dato che in città era noto questo suo desiderio, e anche se, appunto, l'uomo era un po' restio ad accettare perché riteneva di non meritarlo, ma di dover studiare sodo. Ma il sindaco della città gli ha consegnato il diploma nella cerimonia, e ha insistito che se lo era indubbiamente guadagnato, appunto, per la vita che aveva svolto, per il tempo, appunto, che ha dovuto dedicare alla Seconda Guerra Mondiale, appunto, ha dovuto combattere durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi ha dovuto rinunciare a studiare per una giusta causa, ecco, e quindi se l'è veramente meritato. E forse ha sofferto di più, nel senso, ha dovuto sacrificarsi di più facendo questo che studiando, quindi anche il diploma di maturità non solo si acquisisce dai libri, ma anche dalla vita stessa e dalle esperienze che, secondo me, si fanno. Ma continuiamo con la bellissima musica, la musica che ci sveglia e ci fa continuare la giornata in un modo diverso. Was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her out of sight. We were so young, I think of her now and then. I still hear the song. she has got a plan for you. Don't you worry now. RM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. In the heart of the night, when it starts in the lights, I heard the loudest noise, a gunshot on the floor. Questi erano i romantici Backstreet Boys, Straight Through My Heart, CRM, Happy Wake Up, là c'è la musica che è carica, che è potente, la musica più, un po' più dolce, che magari ci fa alzare sempre con, ci fa appunto condurre la giornata in maniera più, più positiva, nel senso nella dolcezza e nell'amore, ecco, perché naturalmente come ho detto anche le altre volte, l'amore fa girare ogni cosa, però non aiuta nella comprensione, e infatti è scienza che gli uomini non capiscono le donne. Adesso appunto sono stati effettuati degli studi che affermano che gli uomini non riescono a capire le donne perché è un problema dovuto a una parte del loro cervello. Quindi sì, naturalmente un po' tutti si hanno la sensazione, appunto perché lo ammettono apertamente, che il proprio compagno non capisca, non li capisca. La scienza appunto vi dà ragione, perché gli uomini sono realmente in difficoltà nel comprendere le emozioni che le donne esprimono, ad esempio con lo sguardo. Non è vero che noi, sì, da parte sì, sotto, ma molto sotto, c'è la verità che appunto noi donne siamo un po' più particolari, abbiamo più esigenze, abbiamo più flussi interni più disparati rispetto agli uomini, e quindi questo ci causano molti anche sbalzi di umore, anche di temperatura stessa. Però c'è una verità di base, che non è colpa appunto della cattiva volontà degli uomini non capire le donne, oppure della troppa diversità, della troppa emotività femminile, ma c'è una struttura del cervello maschile, e quale invece rende più bravo l'uomo a relazionarsi con gli altri uomini. E infatti lo svelo un curioso studio realizzato dai ricercatori del Dipartimento di Psichiatria University Hospital di Bochum in Germania, è pubblicato su PLOS ONE. Gli scienziati hanno scoperto che le persone di sesso maschile impiegano il doppio del tempo a comprendere i sentimenti che le donne esprimono con lo sguardo rispetto a quanto invece occorre loro per comprendere un altro uomo. E questo accade per il modo in cui funziona il loro cervello. Gli studiosi sono giunti a queste conclusioni dopo aver sottoposto 22 soggetti di sesso maschile di età compresa fra i 21 e i 52 anni di età a un confronto fra test di lettura dei processi mentali innescati dagli occhi con immagini di risonanza magnetica del cervello. Cioè, sembra chissà che cosa, ma è una cosa molto semplicissima. Hanno così scoperto che anche in presenza di questi segnali nei volontari non si accendevano alcune aree del sistema limbico, come l'ippocampo e la parte frontale della corteccia cingolata. Afferma il professore che ha condotto lo studio, Henrik Walter: il nostro studio conferma che ci sono differenze di genere in alcune aree del cervello. In effetti, quando i test sono stati effettuati fra gli uomini, si è attivata in modo più evidente l'amigdala, l'area limbica del cervello che presiede alle emozioni e all'empatia con gli altri. Insomma, il cervello maschile dimostra di riconoscere in qualche modo una similitudine fra i pensieri degli altri uomini e il proprio vissuto. Quindi adesso mettete il cuore in pace, care donne, in ascolto, che i vostri uomini, inutile che voi magari cercate di indurli a farvi capire, perché c'è anche l'induzione che è una buona arma, ma c'è questa parte del cervello che non si attiva ai nostri sguardi, ma si attiva ai sguardi degli altri uomini. Quindi mi facci callo, come si suol dire. Close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you'll be begin the rubble of our sins. And the walls kept tumbling down in the city that we love. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Shakira, CRM, Happy Wake Up. E per richiedere la vostra musica preferita in questa mattina di lunedì 22 aprile 2013 potete farlo mandando un sms al 335-56-37251 o telefonare allo 0921-92-32-92, oppure potete vederci e sentirci su internet al sito www.crmhappyradio.it, oppure siamo anche su Facebook, anche lì potete richiedere la vostra musica, interagire con noi e diventare soprattutto fan della nostra pagina Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio e poi cliccando sul bottone mi piace, quello col ditone in alto, col pollicione in alto, e potete anche essere aggiornati sulla nostra programmazione, sulle notizie che circolano anche nella nostra pagina internet. quindi diventate fan. Già siamo arrivati oltre 5.000 fan, dobbiamo aumentare, dobbiamo arrivare a 6.000, dai, vediamo se ce la facciamo. Magari anche parlate pure con i vostri amici, con parenti, nel senso mettete lì tutti gli amici che volete, dai, diventate fan, perché la nostra radio si sente, si vede ed entra nelle nostre case con tanta allegria, tanta spontaneità e anche tanta informazione, appunto, anche notizie. Siamo anche spesse volte è capitato che siamo stati anche i primi a dare informazioni riguardo appunto la nostra città, le nostre vicende politiche, amministrative e così via. Quindi ma noi la mattina, per essere più leggeri, per sentirci più spensierati, ecco, invece noi le nostre notizie sono più tranquille, sono più spensierate, sono anche, aiutano comunque anche a pensare un poco su, pensarci un po' tutta la giornata, ecco perché poi alla fine della trasmissione io mi lascio un ricordino, appunto una frase che vi accompagnerà appunto per tutta la giornata, magari per tutta la settimana, e vi do quegli spunti di riflessione che nella vita e nella giornata non devono mancare. E questa invece è un'idea veramente interessante da proporre anche qua in Sicilia, magari anche a Cefalù sarebbe una cosa veramente interessante, quello del museo della matematica, perché si sa che la matematica è una materia molto difficile e spesso mal vista da molti bambini e ragazzi. Sì, anche io mi ci metto nella mischia, appunto perché non la capivo sommariamente, solo perché dovevo raggiungere una certa media, un certo voto, appunto per avere la sufficienza, e rimaneva lì. Non andavo oltre a capire ulteriormente appunto la matematica, perché appunto non capivo a cosa mi potesse servire nella vita. Invece è molto importante, lo sottolineo anche qui, perché per esempio ci permette di risolvere alcuni problemi della vita quotidiana, come per esempio come scegliere il mutuo più conveniente, ad esempio, o ci si basa appunto su concetti matematici per evitare appunto di sbagliare in calcoli anche naturalmente geometrici, anche soprattutto gli architetti penso che devono avere una buona preparazione matematica alla base, come anche i geometri, come tutti anche altri mestieri comunque importanti. E il problema però è che la matematica spesso è sentita come qualcosa di astratto, scollegato appunto dalla vita reale, difficilmente comprensibile. La colpa, secondo molti, è anche di come viene spesso presentata la matematica, infatti, penso questo anch'io, proprio per far conoscere la matematica sotto una veste diversa è nato a New York il Museo della Matematica, rivolto innanzitutto ai giovani. Contiene una serie di installazioni che presentano concetti matematici sotto una veste insolita e curiosa. Ad esempio, una sala contiene dei tricicli con ruote quadrate che però funzionano in modo perfetto, in quanto la pedana è costituita da una serie di dossi semicircolari il cui profilo è lungo esattamente come il lato del quadrato della bici. Poi abbiamo un'altra installazione che permette di creare fisicamente la curva che permette a una massa di passare da un punto A a un punto B nel minor tempo possibile. Contrariamente a quello che si potrebbe aspettare, il percorso più veloce non è una linea retta. Non mancano poi anche prismi di varie forme per creare figure geometriche con una luce laser, oppure le macchine cifratrici utilizzate nella Seconda Guerra Mondiale. Il successo è stato finora abbastanza notevole, proprio per la possibilità di vedere in pratica concetti spesso presentati solo in modo astratto. È veramente una bellissima, interessantissima scoperta, quindi magari interessante da proporre anche nelle scuole, fare dei piccoli musei o piccoli laboratori matematici che veramente fanno apprezzare appunto questa materia diversamente. Ma continuiamo con la nostra bellissima musica. Questi sono i Maroon 5, One More Night, a CRM Happy Wake Up, restate con noi. You and I go hard. and making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. dopo questa splendida melodia degli Aerosmith, I Don't Want You to Miss a Thing, a CRM, siamo ritornati a CRM Happy Wake Up con me, con Patrizia Curreri. Abbiamo ancora tre quarti d'ora per stare ancora insieme ad ascoltare queste bellissime, questa bellissima musica, la musica di CRM Happy Radio, e di continuare a raccontarcela un poco. Adesso, dopo che ci siamo un po' romanticizzati, ecco, momento romantico, adesso volevo parlare appunto della facoltà che può avere la musica, cioè quella di migliorarci la memoria, e ascoltarla nel sonno, affermano alcuni studiosi, aiuta i ricordi e anche il riposo. Certo, questa qua degli Aerosmith è veramente abbastanza romantica, tale da poterci appunto un po' portare a galla dei ricordi, la nostra, e quindi aumentare la nostra memoria, o anche un po' addolcirci, colcolarci nel letto, nel divano dove siamo, appunto per iniziare un bel po' di un bel sonnellino. Ma era un po' per romanticizzarsi un poco questa mattina. Però lo studio afferma che avere come sottofondo notturno una musica dolce e ritmata non solo non disturba il riposo, ma costituisce una stimolazione sonora che può migliorare la memoria. Uno studio ha scoperto che sincronizzando la musica di sottofondo al particolare ritmo delle oscillazioni cerebrali del riposo, si può migliorare sia la qualità del sonno che la prontezza della memoria. Lo ha stabilito una ricerca dell'Università di Tübingen in Germania, pubblicata sulla rivista Neuron. Lo studio ha scoperto che le oscillazioni elettriche lente registrate nella corteccia cerebrale durante il sonno notturno sono responsabili dei ricordi al momento del risveglio. Se si fa ascoltare a un soggetto addormentato la registrazione di suoni sincronizzati ad hoc con il ritmo di queste oscillazioni, la capacità della memoria al mattino successivo risulta migliorata. Insomma, un sottofondo sonoro adatto e in grado di influenzare l'attività del cervello in modo semplice e non invasivo, migliorando nello stesso tempo la qualità del sonno, e proprio appunto la musica. Secondo i ricercatori, questo approccio potrebbe essere utilizzato per aiutare chi ha problemi di insonnia o a ristabilire anche i ritmi cardiaci alterati. Vedete un po' quante proprietà. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni solo dopo aver sottoposto a una serie di test 11 soggetti. I volontari sono stati esposti durante le ore di sonno a particolari stimoli sonori, in particolare a musiche sincronizzate con il ritmo lento delle oscillazioni del cervello, oppure con sottofondi qualsiasi non sincronizzati. Nel primo caso, a risveglio i soggetti erano in grado di ricordare meglio le serie di associazioni fra parole e avere imparato la sera che aveva imparato la sera prima. Lo stimolo sonoro non allineato al ritmo lento delle oscillazioni è risultato invece del tutto inefficace. Quindi dobbiamo avere sempre un macchinario che fa vedere un po' le oscillazioni del nostro cervello per poter trovare la musica giusta. Beh, dobbiamo quindi dobbiamo chiedere a uno scienziato, dobbiamo prendere uno scienziato, aiutarci in questa ricerca, e magari chi magari soprattutto soffre di insonnia, che è un problema molto grave, e per poi appunto perché porta molta stanchezza, e quindi questo si ripercuote un po' in tutte le attività della giornata. Ecco, questo è un buon metodo, certo un po' difficile da attualizzare nell'immediato, però chissà se magari appunto non sia una soluzione di pronta, di immediata certezza e concretezza. Ma adesso troviamo un senso alla nostra vita con Vasco Rossi. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso,

Questa era la grande Pink con Non Try. Bisogna sempre tentare, tentare, osare nella vita, e poi ci si riesce. Sì, sì, perché se si osa si arriva comunque all'obiettivo. Certo, il problema è appunto osare, cercare appunto di trovare quella spinta giusta, quella volontà giusta, quel coraggio soprattutto di osare in ogni cosa per riuscire appunto nei propri obiettivi. Questo è un po' quello che magari tutti ci insegnano, ci possono insegnare anche vedendo appunto le esperienze altrui. Ma tralasciando un po' questi sentimentalismi, queste vene poetiche, ritorniamo appunto agli studi scientifici. Ecco che un altro studio condotto dai ricercatori della Queen Mary University, dell'Università di Londra e della Oxford University, è pubblicato nella rivista Neurology, e hanno affermato che il mese di nascita può influire sulle difese immunitarie. Il corretto funzionamento del sistema immunitario sarebbe influenzato dal mese di nascita. Per esempio, gli studiosi britannici hanno verificato che le difese dell'organismo sarebbero più forti nei nati in novembre e più vulnerabili in coloro che sono nati a maggio. Quindi una ricerca veramente, è un po' abbastanza lungo qua tutto il discorso sullo studio, sulla ricerca che hanno effettuato appunto sia a Londra sia ad Oxford. Ma alla fine si è giunti a questo studio, quindi questa realtà, cioè dei fatti, cioè che appunto i nati di novembre sarebbero più forti, hanno più difese immunitarie rispetto a quelli nati a maggio. Gli altri mesi non si sa, magari successivamente faranno ulteriori ricerche per vedere appunto gli ulteriori mesi, gli altri mesi, come saranno le nostre difese immunitarie appunto il mese di nascita. Ma continuiamo a ballare, a danzare e a svegliarci in questa mattina CRM Happy Wake Up con Will I Am e Britney Spears. The action. When you hear this in the club, you're gonna chop, turn it up. You're gonna chop, turn it up. You're gonna chop, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rocking out. If you know what we talking about. Turn it up and burn down the house. Half, half, hey, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we gon' shake the ground. Cause everywhere that we go, bring the action. When you hear this in the club, you're gonna chop, turn it up. You're gonna chop, turn it up. You're gonna chop, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah.

è il 22 aprile, giusto? 22 aprile 2013, appunto, si festeggia la giornata della Terra, la giornata mondiale della Terra, è istituita nel 1970 dalle Nazioni Unite, la più grande manifestazione ambientale in cui si celebra il pianeta Terra e se ne promuove la salvaguardia. E qua a Cefalù quest'anno si festeggia appunto in contemporanea nazionale e internazionale la giornata della Terra. Infatti sono svolta dal giorno 20 fino a oggi, quindi sono state dei convegni, delle mostre, convegni su tematiche ecosostenibili, escursioni guidate sulla Rocca, a Gibilman, e degustazioni e concerti e mostre fotografiche. Oggi, ultimo giorno, il programma è il seguente, cioè alle 9.30, quindi già iniziamo. Educazione ambientale presso la scuola elementare Nicola Botta, prima edizione adotta un albero. Poi alle 15.30 presso la sala delle Capriate si parla di sensibilizzazione ambientale, e alle ore 20 ci sarà una manifestazione sportiva all'Athletic Center Cefalù presso la palestra del liceo artistico Diego Bianca Amato. Quindi siete tutti invitati a celebrare insieme la giornata della Terra, la nostra bellissima Terra, che in tutte le sue sfaccettature, nella sua varietà e nella sua immensità ci regala tante tante belle cose, nonostante l'azione dell'uomo che ultimamente ha distrutto grandi distese di foreste e sta avanzando ancora buttando un po' di cemento un po' dappertutto, però la natura ancora ci regala tanti colori, tante bellezze. Anche una semplice rosa, ieri infatti ho fatto una bellissima fotografia, una rosa gialla bagnata, e quindi c'erano quelle gocce, si vedevano quelle goccioline, stupendo, cioè cosa c'è di più bello? Anche un semplice fiore può regalare delle emozioni veramente belle, quindi questa è la natura, questa è la nostra terra e noi l'amiamo e oggi la festeggiamo con tanta soddisfazione e consapevolezza di quello che la natura ci dà. E adesso invece cantiamo con Michael Jackson e Pitbull con Bad. Love it or hate it, it's Mr. Worldwide with the world's greatest. You gon' play this, or like a woman that's pregnant for 10 months, be the latest, don't delay this. I'm on that roller, making a toast to the King MJ for life. I mess with good women, but you know that they bad. That's right. Your word is mine, don't take pride. Just show your face, proud guy. I'm telling you, wanna know how I feel. Gonna catch your mind, don't you dare. Tremble, get on me, alright. Making a toast to the King, we're back. Giving you on how to be. Just show your stuff, or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know your game, what you're about. They say it's time to live, and to me it's really true. I'm a friend, you have seen nothing. Just a way to talk it to me. R.I.P. Catch a chica with a P.Y.T. All off in Paris. Ooh, wee. I've been around the world getting off the chain, and ain't nothing changed, luchando. Except now the sun and the moon know me by my first name, Armando. De santo no tengo nada, y de diablo lo tengo todo, hazte bobo. Mamita, te tengo la carne, hazme favor y préstame el mojo. I'm so out of this planet, I speak a third language called that moon talk. In 4 years, catch me with a billion, doing that moonwalk. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me. In my street. I cari Luminers con Oh Hey. È carino pure il loro video, molto simpatico, dove loro ci sono loro che camminano e tutti gli altri che gli vanno dietro con la loro chitarrina simpatica. Anche la canzoncina è molto carina, appunto, da sentire. E rende un po' felici questa mattina di 22 aprile 2013, la giornata che dove si festeggia appunto la giornata della Terra. Noi continuiamo a festeggiare questa giornata, perché ogni giorno deve essere celebrato nel miglior modo, appunto perché siamo qua, siamo vivi, siamo svegli e siamo tanto spensierati, ecco, in questa mattina qua a CRM Happy Radio. E adesso comunque ci spostiamo in un'aura musicale diversa con Linkin Park. Questa è Castle of Glass. Continua a stare con noi anche perché dopo di me c'è Francesco Puglisi con Slalom, che continuerà la bellissima musica di CRM RM Happy Radio in nostra compagnia e anche vostra. Take me down to the river bend. Take me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave. Where the sirens sing, warm me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below. 'Cause I'm only a crack in this castle of glass. in this castle of glass. Hardly anything else I need to be. RM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy of some revenge. I saw the life inside. So shine. Questa era Rihanna con Diamonds a CRM Happy Wake Up. E sono le 10:57 precise. E ancora abbiamo pochi minuti ancora per stare insieme, per raccontarci l'ultima notizia e poi salutarci e poi dare spazio al Puglisi che viene con uno slalom. E qua dal web arriva una notizia interessante. Parlavamo appunto di esami di maturità, appunto, che sono alle porte. Però c'è una notizia dal Ministero dell'Istruzione, che afferma che andare bene a scuola conviene non solo perché evita gli studenti disfuriati dei genitori e prof, ma premia tutti i ragazzi che più degli altri si sono distinti nell'ambito scolastico, con tantissimi benefit, spesso in denaro, che possono raggiungere anche i 4.000 euro. Insomma, impegnarsi nello studio non solo salva dalle tristi punizioni di genitori troppo arrabbiati, ma aiuta a guadagnare risolvendo problemi di soldi per vacanze e uscite con gli amici. Quindi, se andate bene a scuola, appunto, lo Stato vi paga, a quanto pare. Per esempio, molti non sanno che chi prende il massimo dei voti all'esame di maturità vince una borsa di studio abbastanza consistente. Infatti, in base al provvedimento direttoriale dell'elettoriale dell'8 ottobre 2012, chiunque lo scorso anno scolastico sia uscito dalle scuole superiori con una votazione non inferiore al 100 e lode si è assicurato anche una borsa di studio di ben 650 euro. Insomma, non si tratta di briciole, specie per chi desidera frequentare appunto l'università e che appunto gli paga direttamente le tasse universitarie con questa borsa di studio. Quindi il messaggio è: andate bene a scuola, che naturalmente ne avrete tanti benefici, soprattutto in denaro, così potete fare le vostre ricariche, potete fare i vostri regalini, avere soddisfazione non solo dai genitori ma anche economicamente parlando. E adesso Inegramaro, Parlami d'amore, poi saluti finali. Continuate a stare con noi. Coprimi la testa con la sabbia sotto il sole, quando pensi che siamo troppe le parole. Dimmi se c'è ancora sulle labbra il mio sapore, quando pensi che siamo troppe le paure. Sono le 11 e CRM Happy Wake Up è terminato, senza però ricordarvi i nostri appuntamenti. Innanzitutto domani alle 18.30 presso la Rettoria San Domenico, via Costa 63, ci sarà la Grand Tour della Poesia, organizzato dalla Fondazione Fiumara d'Arte Antonio Presti, e in, appunto, all'interno del Rito della Luce 2013. Ci sarà un reading di poesie dove anch'io reciterò una delle poesie mie, riferimento appunto alla Grande Madre, il tema appunto di questo reading di poesie. Poi un altro appuntamento con il nostro programma è appunto venerdì dalle 9 alle 11, sempre con me, con Patrizia Curreri, e CRM Happy Wake Up. Vi saluto con una frase di Papa Francesco: per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli, l'umiltà è la base di ogni vera grandezza. Un bacione a tutti e buona giornata da Patrizia. Ciao ciao!